Benvenuti a tutti e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, siete sintonizzati sulle 87.9, oggi è giovedì 30 giugno, sono le 15.04, siamo un po' in ritardo visionari, avevo un sacco di ospiti e quindi noi iniziamo ora, Tracce di Cinema come ogni giovedì, un saluto va di tutto cuore con affetto più particolare rispetto a tutti gli altri, a coloro, a tutti i compagni, alle compagne, a tutti coloro che sono privati della loro libertà. Oggi un film che a noi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che aspettavamo di fare questa colonna sonora, finalmente ci siamo decisi perché insomma non eravamo sicuri che fosse realmente uscita o no, ma invece insomma poi l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo fatta uscire noi, se in realtà non è ancora uscita dal punto di vista commerciale con un CD. Il film di oggi è un film di quest'anno, French Connection di Cedric, del 2014 scorso. 2015, 14. È uscito nel 2015, ma credo sia del 2014. Scusate, Cedric Jimenez, una colonna sonora strepitosa secondo me, da ascoltare tutta, tantissime le tracce, le musiche del film sono di Guillaume Roussel, che è un compositore francese che ha eseguito e ha fatto colonne sonore per diversi film cinematografici, e ci sono brani che sono stati composti appositamente da lui e brani invece che celeberrimi, che insomma si alterna tra Velvet Underground, Blondie, tantissimi altri. Bene, che dire, forse è meglio non dire niente e iniziare con la musica, che dici Fede? Va benissimo. Che sviolinata! Ebbene sì, questa canzone, che non è propriamente la canzone che introduce il film, è un'altra, però apre questa puntata di Tracce di Cinema dedicata a questo film francese, bellissimo, French Connection, contraltare europeo della French Connection di William Friedkin, che noi conosciamo come Il braccio violento della legge, che è stato premiato nel 1971 con un Oscar, che aveva come protagonisti Gene Hackman, Roy Schneider, Fernando Rey, e vinse, pensa, fai fede, anche un BAFTA per la colonna sonora nel 73, cosa che invece non ha vinto il nostro film, ma che comunque insomma merita un passaggio attraverso queste frequenze per la bellezza della musica che rivive grazie appunto a questo polar, che è un genere a cui si riconducono storie poliziesche e noir, tipico degli anni 50 e 70, e fa rivivere sul grande schermo due argomenti ispirati a vicende realmente accadute, che si mescono assai bene, secondo me. Rocky and the Riddlers con Flash and Crash mi ricorda molto Gloria dei Damn, l'originale. Sì, sì, sì, e questo è un gruppo formato da Bill Rhodes alla voce, Alan Mac Park alla chitarra, Jeff Bills al basso, Jeff LaBrush alla batteria, e questo era un singolo che ha avuto grande successo all'epoca nel 1966 ed era il secondo lato invece del brano che ci ha preceduto, della traccia che ha preceduto questo brano dei Rock and the Riddles, era una versione francese di Sheila, di Bang Bang, che era un singolo che ebbe grandissimo successo grazie a Cher. Le fu scritto dal marito Sonny Bono. Era divertente anche il nome del disco con cui uscì questa canzone, The Sonny Side of Cher. Mi divertiva questa cosa. Erano molto innamorati all'epoca i due. E non ebbe grande successo all'epoca. Se non pensate, soltanto 3 milioni di copie ha venduto quando è uscito. Non proprio pochissime. Comunque la versione più famosa è stata quella che ha cantato Nancy Sinatra, è diventata celeberrima grazie al film di Tarantino, Kill Bill volume 1, e poi ne sono state fatte tantissime cover, Stevie Wonder, Frank Sinatra, anche una di Iva Cattaneo nell'album Bandiera Gialla, e tutto qua. Allora, facciamo che si pronuncia Lickely. L Y K K E, Licke, secondo me. Jerome, una iTunes session. Questa sì, è il sì, titolo. Sì, sì, lei è svedese, è una fricchettona di famiglia fricchettonissima, hanno girato in tutto il mondo, si sono spostati in giro, super hippie, hanno vissuto per l'Europa, Marocco, Nepal, Portogallo. Poi sono tornati in Svezia, poi lei si è trasferita a Brooklyn e ha iniziato a fare musica finché nel 2009 ha partecipato a Lollapalooza e è diventata celebre, famosissima a tutti tranne che... Aiutata pure dal nome secondo me. E, però è riuscita a far conoscere la sua musica anche grazie al cinema e alla televisione, perché per esempio il suo brano I'm Good, I'm Gone fa parte della colonna sonora del film Patto di Sangue, poi nel 2009 ha scritto un brano dal titolo Possibility appositamente per la colonna sonora del film The Twilight Saga, New Moon, e ha collaborato anche con David Lynch, che io non sapevo facesse anche il musicista. Tu lo sapevi, Fede? Ho trovato una notizia inventata, chissà se qualche Lynch? Sì, sì, qualche... sì, sì, ah, sì. Lo sapevi? Beh, sì. Io non lo sapevo. E beh, insomma, ha collaborato anche con lui per un brano dal titolo I'm Waiting Here. Invece questo film, budget 21 milioni di euro, è abbastanza ingente, però è stato necessario, è stato anche molto ben utilizzato, secondo me, nella ricostruzione meticolosa di una Marsiglia della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. E anche se secondo alcuni critici non è bastato a colmare un'assenza riguardo alla dimensione politica e storica della storia, anche se secondo me gli attori sono talmente bravi e la sceneggiatura funziona talmente bene, i tempi sono talmente giusti anche dal punto di vista di regia, che anche se non c'è una ricostruzione politica e storica, forse insomma non è così tanto importante. Comunque insomma questo film narra, si ispira alla storia del giudice Pierre Michel, assassinato a Marsiglia nel 1981, e di Gaetan Zampa, boss della mala marsigliese negli anni 70. I due sono due perfetti antagonisti sia nella realtà che nella finzione, sono due antagonisti molto carismatici, interpretati benissimo da Jean Dujardin e Gilles Lelouch, perfetti anche tutti gli altri componenti del cast, secondo me hanno delle facce, che proprio dei volti azzeccatissimi che bucano lo schermo, e sono proprio una coppia di antagonisti per antonomasia, due eroi tragici ma allo stesso tempo anche molto, stanno molto nel rischio, gli piace stare molto all'interno di questo loro ruolo di buono e di cattivo. Que tu n'as pas d'autre fille, que je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Un jour ou l'autre pour te quitter. Tu joues avec le feu et tu t'amuses. Mais un jour viendra, tu vas te brûler. Un autre a pris ta place et moi je l'aime. Et ce qu'il est, tu ne le sauras jamais. jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant c'est toi que je vais faire marcher. Yeye Volle Gaz insieme a Delphine Gardin, il titolo in francese lo pronunci tu però. Ces bottes sont faites pour marcher. E anche qui pronuncia. Anche qui torna lo zampino di Nancy Sinatra, perché sì, la sua versione è quella che ha reso grande questo brano. Sì, sì, è del 1966, la figlia del celebre Frank, insieme a Lee Atwood, pubblicava un brano che nel solo anno di uscita sarebbe stato poi pubblicato da altri 13 artisti. E poi in quel periodo Nancy Sinatra lo presentò in Vietnam, si esibì di fronte alle truppe americane e "These Boots Are Made for Walking" venne adottata dai soldati come inno. A distanza di 50 anni il pezzo continua a risuonare proprio in innumerevoli versioni, poi insomma la conosciamo tutta la celebre la migliore versione. Resta la sua. La sua versione resta la migliore, però è stato utilizzato, è stato coverizzato da tanti. Stanley Kubrick lo ha utilizzato per una scena del film Full Metal Jacket, anche i Bastelli hanno fatto una cover. Il titolo è ispirato a una battuta della commedia western I Quattro del Texas, dove i quattro del titolo erano Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg e Ursula Andress. Down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. "Oh well," she cried, "I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman." The snake, now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. "Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman," sighed the snake. To her bosom, "You're so beautiful," she cried, "but if I hadn't have brought you in, by now you might have died." Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight, but instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. "Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman," sighed the snake. "Now I saved you," cried that woman, "and you bit me even a while, and you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die." "Shut up, silly woman," said that reptile with a grin. Al Wilson con The Snake rifà pure il verso del serpente, la S sibilante, eh? Lo voglio mettere sul mio cellulare, sì, via. Sì, è fighissima canzone, singolo realizzato appunto da Al Wilson nel 1968, scritto da Oscar Brown nel 63, è ispirato a una favola di Esopo, quella di una contadina che incontra sul suo cammino mentre sta andando a lavorare un serpente che è mezzo morto dal freddo, e commossa lo prende con sé, lo porta a casa, lo sfama, gli dà del latte e del miele, lo mette vicino al fuoco, va a lavorare e poi quando torna trova questo serpentello redivivo, felice e contento di, insomma, di essere stato salvato. Lei anche altrettanto contenta lo abbraccia, insomma lo porta a sé, il serpente naturalmente la morde e lei gli chiede: perché mi hai fatto questo? E lui dice: stupida ragazza, non sapevi che io ero un serpente e che sono velenoso e che mordo e questa è la mia natura. E pensa un po' che quel coglione di Donald Trump nella sua campagna elettorale ha espressamente citato questa canzone, rivolgendosi ai suoi elettori per giustificare la sua ostilità riguardo all'accoglienza dei rifugiati siriani, che secondo lui, se venissero accolti negli Stati Uniti, si rivolterebbero proprio contro i cittadini americani, come ha fatto il serpente. E insomma, non si conferma sempre il solito coglione, non c'era bisogno che citassimo questa altra coglionaggine, scusate le troppe parolacce. Senti, invece del pezzo precedente hai detto che non avevi detto niente di lei, giusto? Pochissimo, perché molti di questi interpreti sono sfuggiti alle nozioni, alle informazioni che di solito si trovano in giro sulla rete. Comunque Delphine Gardin è una cantante di un gruppo belga che si chiama Musun, formato anche da Joel Grignare. Si definisce un gruppo jazz che con uno stile cinematografico, e si sono molto ispirati nelle loro musiche, nelle loro tracce, nei brani da loro interpretati a David Lynch. Ecco qua che ritorna di nuovo come anche prima, anche Lynch. E invece per quanto riguarda il film, volevo dire soltanto che il regista è stato Cedric Menez, è stato fin da piccolo a contatto con questa realtà di mafia, perché era marsigliese, e con questa precisa storia in particolare, avendo vissuto appunto a Marsiglia in quegli anni. E in più suo padre, almeno lui ha raccontato in un'intervista che io ho trovato in giro sulla rete, il padre aveva un ristorante frequentato proprio da diversi mafiosi, e lì vicino si trovava il bar del fratello di Zampà, quindi insomma forse si è trovato bene nel descrivere anche tutto questo, forse perché l'aveva vissuto proprio da vicino. Yesterday's gone. Let me tell you people what I found. I saw my head laughing, rolling on the ground, and now I'm set free. I'm set free. I'm set free to find a new illusion. E questa era I'm Set Free dei Velvet Underground, fa parte di del terzo album dei Velvet dal titolo omonimo pubblicato nel 1969, il primo frutto della nuova band di Lou. A proposito della genesi e della storia di questo disco, accaddero tre cose singolari. Infatti, allontanato il cofondatore della band John Cale, entrò Doug Yule e tutto cambiò. Riguardo a questo album si narra inoltre che i Velvet, mentre si trovavano all'aeroporto ed erano diretti allo studio di registrazione, subirono il furto di tutti gli effetti elettronici, restano solo con gli amplificatori e le chitarre, senza distorsori, compressori e pedali vari. Anche per questo le sonorità del disco risultano molto semplici. E pare infine che Reed, dopo la registrazione, il missaggio dell'album, tornò da solo in studio di registrazione e rifece il missaggio per mettere in evidenza la propria voce e la propria chitarra, distruggendo tutto il duro lavoro che gli altri componenti della band avevano compiuto per tirare fuori il meglio dalle sue composizioni. E quindi questo influenzò poi tutto il resto della carriera di Lou Reed, gettando il seme per lo scioglimento della band. Tutte le canzoni dell'album sono incentrate sull'argomento su cui Lou era più confuso in quel periodo, cioè l'amore, confusione che si manifestò nella sua bisessualità. E questo brano malinconico racconta della fine di una relazione in cui il protagonista si sente libero dai legami della vecchia relazione e prospetta a se stesso nuove storie, perché però annuncia nella canzone diventeranno inevitabilmente come quella appena conclusa. Sì, il gruppo rock italiano degli After Hours ha preso il nome dall'omonimo brano di questo disco. I Velvet Underground ci portano all'ospite di questa settimana, che come un anno fa è Giorgio Gosetti. Pronto, Giorgio? È un anno più vecchio, ma insomma sono sempre io, sì. Come stai? Molto bene. Allora, French Connection l'abbiamo scelto perché ha una gran bella musica, questo è il motivo di fondo. E poi il film, devo dire, ci ha divertito ad entrambi, me ed Ottavia, insomma ce lo siamo goduto dal punto di vista cinematografico, di intrattenimento, questo è indubbio. Giorgio, avviso per gli ascoltatori, perché qualcuno un po' anzianotto potrebbe confondersi con un Friedkin dannata. French Connection, di cui stiamo parlando, è La French, che è un film molto più recente, un film francese del 2014, ed è effettivamente un film estremamente divertente e con una storia curiosa e un protagonista del tutto particolare. Sì, sì, sì. Due gran bravi attori che rubano la scena, e poi sicuramente un film di quelli che reinterpretando o andando a rivedere delle epoche passate lo fanno in chiave molto calligrafica, che risulta comunque piacevole, come dicevo prima. Ma io stavo pensando, quando ci siamo messi d'accordo di solfeggiare sui temi musicali del film di Cinemez, di come sono in fondo diverse due società molto così vicine. Sì. Cioè, noi avremmo fatto Cadaveri eccellenti due. Loro calligrafano fra Il clan dei marsigliesi e French Connection rivisitata, perché poi Albin Michel è un personaggio che effettivamente ha attraversato la storia di Francia, era il giudice contro i francesi, finito male tra le altre cose, e sta sullo sfondo di tutti i film di cui stiamo parlando, ma certamente lo stile del cinema francese è proprio diverso dal nostro. No? Non esiste un cinema di denuncia e di impegno civile francese uguale al nostro, però visto oggi la Francia è particolarmente bello da vedere, piacevole, non solo perché Di Giordano è molto bravo, ma perché è un è un quadro d'insieme, un affresco di una Marsiglia che tra le altre cose non c'è più, è proprio cambiato. Sì, sì, sì. E anche in questo la ricostruzione è molto accurata, perché non era facile rivivere quei luoghi, quelle atmosfere, anche quel gruppo di persone, quell'habitat, insomma, era un'operazione complessa. Ma hai ragione, perché appunto loro lavorano bene su questo. A me è venuto in mente, ripensando alla French, un'operazione quasi analoga che ha fatto l'Ilias Ayas per la televisione con il suo Carlos, sì, che è una, sì, ricostruzione anche in quel caso di temi, di ambiente, di sfondo quasi più importante della sua interpretazione storico-politica della storia, sì, forse del terrorista, sì, più famoso d'Europa. Sì, sì, sì. E probabilmente, ecco, la costruzione del giocattolo conta di più della storia di fondo, insomma. Senti, di questa regia che mi dici di Jimenez? Che è una bella regia, è una regia di servizio, secondo, sì, me, nel senso, sì, che, sì, appunto è proprio al servizio dei suoi attori. In questo senso lo fa al meglio. Io non credo che noi potremmo mai annoverarlo fra i maestri, però abbiamo sempre il problema, tipico dei critici italiani in particolare, di non tener mai conto che il buon artigianato vale, e vale tantissimo, e se un film come questo, che non ha ambizioni diverse da quelle di costruire il monumento a un personaggio affascinante quanto importante, beh, se uno lo sa fare bene va benissimo, non c'è bisogno che sia Stanley Kubrick tutte le volte. E poi è stato bravo proprio anche a ricostruire questa Marsiglia, che io almeno nel mio immaginario è un po' la Marsiglia quella di Brigitte Bardot, quella un po' godereccia della Costa Azzurra, eccetera. Invece lui proprio la ricostruisce proprio in questi vicoli, un po' queste case popolari, questi baretti frequentati dalla malavita. Insomma, si sente anche che l'ha conosciuta bene, no? Stavo dicendo prima che ho trovato su internet, non so se mi confermi questa notizia che ho trovato, che lui ha vissuto in quegli anni all'interno di questo ristorante del padre, e quindi ha conosciuto veramente la mala marsigliese di quel periodo. La mala marsigliese di cui parla, che conosce indirettamente abbastanza bene, è effettivamente una società di casta, è un'aristocrazia paradossalmente, molto diversa dalla malavita parigina, per esempio, molto influenzata dalla malavita corsa e quindi da un'idea di casta, non c'è dubbio, bella o brutta che la si voglia rappresentare. E ci sono tre modi, secondo me, per vedere Marsiglia con gli stessi occhi di Jimenez. Ricordarsi, perché un film come Il clan dei marsigliesi ci dice delle cose che oggi riviste varrebbe la pena di confrontare con la raffigurazione che c'è nella French. Il secondo modo è aver letto i libri di Izzo, Jean-Claude Izzo, che racconta una Marsiglia leggermente diversa, ma proprio contigua, diciamo è il quartiere vicino. Oppure essere baresi e aver vissuto a Bari Vecchia, che più o meno era uguale a Marsiglia, eh? e come la Marsiglia di oggi, la Bari di oggi è totalmente diversa. Sì, sì, sì. Senti Giorgio, rispetto alle musiche, c'è Blondie, ci sono i Velvet Underground, ci sono un paio di successi, stavamo ricordando prima le versioni che Nancy Sinatra ha fatto di Bang Bang e This Boots Are Made for Walking, che qui sono in versione francese, però insomma è un anche Al Wilson abbiamo ascoltato prima con The Snake, una cura anche nella musica che chiude anche il cerchio. È la colonna sonora che dà l'aria del tempo. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. E quando tu giustamente dici che ci sono alcune hit che stanno in versione francese, bisogna pensare che il primo destinatario della French era il pubblico francese. Eh sì, eh sì. Il quale quasi non sa che c'è un originale in Sinatra, come noi negli anni 60 non sapevamo che c'era un originale di California Dreaming, sì, per noi era i Dick Dick, sognando la California, punto. La Francia ragiona ancora oggi nella stessa maniera dal punto di vista musicale, poi impone delle mode al mondo intero in questo momento, e per fortuna, ma per il resto è un paese autoreferenziale in maniera impressionante. Io sono, piccola testimonianza personale, cresciuto sulle note di Adieu Angelina. senza mai sapere che c'era John Baez prima, ma c'era Nana Mouskouri che cantava Addio Angelina. A me è piaciuto molto il film e la colonna sonora l'ho trovata molto molto, insomma, l'ho trovata perfetta, perché era anche molto spiritosa, no? Accompagnava delle canzoni, vero, capito? Non so come se Boston Fait pour Marcher accompagna, non so, una scena di una sparatoria, un impiccagione, insomma, delle scene molto cruenti, molto violente. Io l'ho trovato molto spiritoso nel associare certe musiche a certe inquadrature che, insomma, di leggero avevano veramente poco. No, ma è vero, non è mai una colonna sonora compiacente, è una colonna sonora adrenalinica e un po' autoironica, un po' da contrappunto. Sì, funziona, sì, benissimo in questo senso. Senti Giorgio, c'è un film di questa stagione o più film di questa stagione le cui musiche ti hanno esaltato? Di questa stagione cinematografica o di quella di cui... No, no, di quest'anno 2016, insomma. Perché noi facciamo sempre queste domande bruciapelo ai nostri ospiti ci odiano e il più delle volte su due piedi non riescono a tirare fuori un titolo. Ma su due piedi ti citerei Nice Guys, vedi? Nice Guys, noi ce lo sentiamo, ce l'andiamo a sentire. Ha un ritmo vero e proprio, bene, dal punto di vista anche musicale. Bene, bene. Lo so che tu volevi che io rispondessi via 8 for 8, ma non lo farò. No, per esempio noi di quest'anno abbiamo scelto Stonewall, che ci è piaciuta molto. Vero, hai ragione, sì. Bella colonna. Anche con diversi brani per lo più sconosciuti, insomma, quindi è stata una bella sorpresa. Giorgio, è stato nuovamente un piacere e a questo punto speriamo non fra un anno, facciamo un grazie po' prima. A voi. Sì, sono pronto. Ok, un grazie. Abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao Giorgio. Oh, rispetto a questa scelta c'è un perché. Sì, perché c'est comme ça que je t'aime, Federico. e j'aime, è una dedica. È una j'aime dedica. Sì, la radio, Radio Onda Rossa, io la amo. Amo tutti i suoi componenti, amo Valentina che sta qua con noi, che ci accompagna oggi, e tutti gli amici che la rendono viva, questa piccola grande radio preziosa per la mia vita e per tante altre persone. È un posto speciale per me e quindi io gliela dedico di cuore. Mike Brandt, cosa ne diciamo di Mike lui? Brandt è a parte le foto che accompagnano le sue canzoni, il video lo dobbiamo mettere su come si chiama, Facebook, perché è stupendo lui, tutto quanto bello, muscoloso, veramente occhiali da sole, collane, sì, camicie aperte, sì, bello. Sì, è veramente un personaggio. Beh, no, lui è un personaggio tristissimo, invece pensa, sì, ha venduto tantissimi dischi, ha avuto un grandissimo successo, concerti con pubblico di 6.000 persone, 10.000 persone, però nonostante sia stato amato e la sua carriera abbia avuto un grandissimo, nella sua carriera abbia avuto un grandissimo successo, si è ammalato di depressione e il 25 aprile del 75, mentre veniva pubblicato il suo album, si è lanciato dal settimo piano di un appartamento e si è suicidato. Una storia tristissima, vedi? Nonostante la camicia non aperta, non ha retto al suo successo. Non ha retto al suo successo. No. Abbiamo ancora un po' di tempo per dei brani. Questa ce la stiamo godendo tutta. Sì. Questa è celeberrima. Yeah. È passato il chiamami. Blondie, Call Me. Bellissima, singolo del 1980, ma che dire della carriera di Debbie Harry, considerata da molti una delle icone femminili degli anni 70, la più bella cantante rock di sempre. Anche Patti Smith ne era molto gelosa ai tempi del CBGB. Pensa che stavo ascoltando su un'altra radio, stavano facendo una storia sintetica di Blondie ed è stata anche spogliarellista, ballerina, ha fatto un po' tutto. Ha fatto la cameriera e poi ha fatto la coniglietta di Playboy, Anche la coniglietta di Playboy, poi fa il botto grazie al compagno e marito Chris Stein, che nel 1974 fonda proprio una band specificatamente per lei, i Blondie, e 5 anni dopo Giorgio Moroder, autore di colonne sonore come quella, non so, di Fuga da Mezzanotte, Flashdance, Scarface, Il Bacio della Pantera, La Storia Infinita, personaggio chiave dello sviluppo planetario della disco music, ha il compito di comporre la colonna sonora del film American Gigolo, perché questa canzone è proprio la canzone manifesto del film con Richard Gere. E per Moroder ha per le mani solo una base, servono melodie e testo, e si rivolge a Debbie Harry, che in poche ore scrive testo e musica di Call Me. Poi i suoi Blondie suonano in Europa insieme ai Television, girano l'America facendo da spalla a Iggy Pop, ma diciamo che dopo questo brano sarà solo declino, e nonostante questo dopo di loro la musica da discoteca però non è stata più la stessa, e i diseguaci in contesto musicale ce ne sono stati tanti, come i Garbage, gli Strokes, e comunque i Blondie hanno venduto 40 milioni di dischi, quindi insomma se la so cavata facendo due conti anche non troppo male. C'è ancora tempo per un paio di brani, quindi ci sbrighiamo. Robert Moore, Everything's Gonna Be Alright, funky, un po' anche ripetitiva nel suo essere funky. A me piace molto, stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di The French Connection, di Cedric Jimenez. Siamo arrivati alla fine. Questo brano è uno dei più famosi brani funk degli anni 70, opera dell'icona del funk Robert Moore, che dopo questo 40 giri è diventato il cantante simbolo di un'etichetta molto famosa, la Miami. Il 45 giri originale ho scoperto che è rarissimo ed è una pietra, è costosissimo, chi ce l'ha, insomma, è ricco, ha un tesoro ed è una pietra miliare per i collezionisti della musica funk. Moore pare che sia stato protagonista di più di 17.000 registrazioni di performance musicali. 17.000. E ha suonato in molte colonne sonore in cui appare Elvis, ha lavorato con un'enorme quantità di musicisti, Arthur Fiedler and the Boston Pops Orchestra, Bob Dylan, Marty Robbins, Jerry Lee Lewis, Sammy Davis, Julie Andrews, Andy Williams, Connie Francis, Moby Grape, Quincy Jones, Johnny Holiday, insomma, bravissimo, che dire di lui? Nient'altro, perché non ero pazzo di questo brano, anche se comunque mi piace. Dai, sì, vabbè, un brano piacevole. Si ascolta. Siamo ai saluti, Ottavia. Siamo ai saluti. Io vorrei ricordarvi un po' di appuntamenti a cui tengo molto. Venerdì 1 luglio, vivere sognando e non sognare di vivere e non sognare di vivere i miei anni 70, libro della compagna Porpora Marcasciano Antologaia, all'ottava zona, via Lussi in Piccolo 19, Villa Gordiani. Siete tutti invitati a partecipare. Porpora è stata anche nostra ospite durante proprio per Stonewall. Sì. E quindi, insomma, ci tengo a ricordarvi questo appuntamento per il suo libro, che sicuramente sarà bellissimo. E poi sabato 2 luglio, un altro appuntamento a cui tengo molto, dalle 18, serata presa a benefit per l'autofinanziamento dello spazio Cagne Sciolte, si inaugura il terrazzo con i nuovi lavori di Elle Pitre. Io non ho da dire nient'altro se non ricordarvi che di sostenere la radio, che ha bisogno di un vostro contributo. Potete sottoscrivere attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 5600185, Roma. Potete sottoscrivere anche entrando nel sito della radio comodamente da casa attraverso il PayPal. Ci sono un sacco di modalità, insomma, sottoscrivete, aiutateci a far sì che questa radio continui a trasmettere libera, come è stato dal 1977 fino a oggi, senza padroni, senza padrini politici, senza pubblicità, e per questo ha bisogno della vostra appoggio e sottoscrizione. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica, che tu dovrai controllare ogni tanto, sì. Tracce, sì, di sì. Cinema @ondarossa.info. Ci lasciamo con un ultimo brano che tu definisci country, ma secondo me non è neanche troppo legato a questa etichetta musicale. Stiamo parlando di Tonis Van Zandt, com'è il titolo? Waiting Around to Die. E con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Tra qualche minuto c'è Attica Blues, mezza Attica Blues, speriamo che arrivi il resto. Sta arrivando Pietrone, e poi dopo l'Eschina del Sole. Non vi perdete queste due trasmissioni meravigliose del giovedì. A giovedì prossimo. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time friends I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just a waiting around to die. I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die.